Radio 24. Libera la voglia di fare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e bentornati, ciao Deborah. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi non possiamo non iniziare la puntata con un pensiero alle persone che ieri sera si sono trovate di nuovo ad affrontare l'incubo terremoto. L'Italia trema ancora, Deborah. Trema ancora e vabbè, diciamo notte un po' insonne per me, gli amici ascoltatori lo sanno, tutta la famiglia nelle Marche, stanno bene, lo dico anche a tutti coloro che mi hanno scritto, quindi grazie anche per il grande affetto manifestato. Devo dire che è stato un po' per me un'emozione forte, perché poi tra l'altro ti ricorderai il 24 agosto io ero qua a lavorare in diretta, sì. E ci siamo imbarcati per tutta quella settimana di lunghe dirette per raccontare quello che stava succedendo ad Amatrice, ad Accumoli, ad Arquata del Tronto, e adesso però ecco si sta spostando sempre più verso nord questo movimento e quindi scuote sempre di più anche la costa dell'Adriatico. Per questa maggior ragione io mi preoccupo un po' di più, ma non per la famiglia, per tutto quel territorio che ormai veramente non ne può più di questo, sì. Continuo. Il cuore dell'Italia trema. Sì. Questa nuova paura va a sommarsi a quella ferita aperta, che è ancora aperta, perché gli esperti parlano di ritraumatizzazione. Noi ne vogliamo parlare oggi col professor Fabio Sbattella, psicologo, psicoterapeuta, insegna psicologia dell'emozione all'Università Cattolica di Milano, che è tornata a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno, allora, professore. Ascoltatori. Professore, forse la sfida è ancora più difficile, perché in questi due mesi le persone che hanno cercato di riprendersi, di andare avanti, di ricostruirsi una quotidianità, si trovano di nuovo a confrontarsi con l'incubo del terremoto, e quindi si trovano di nuovo, quando ancora dentro di loro si confrontano con una fragilità, ad affrontare questo evento così drammatico. Professore. Sì, esatto, trema il cuore e trema anche la mente, e la fragilità colpita una seconda volta soffre di più, soffre, se è possibile fare confronti, che è sempre molto difficile, ma in qualche modo il secondo colpo è sempre più difficile del primo, ecco, perché il primo ti disorienta, il secondo ti piega o rischia di piegarti. Professore, si dice sempre che è importante, quanto sia importante non abbassare la guardia, di tenere comunque sempre alta l'attenzione, ancora di più oggi, professore. Sì, tenere alta la guardia può comportare molto stress. Dobbiamo piano piano mantenerci in un'ottica di pazienza, con quest'idea che l'Italia è fatta così, l'affondino ha sempre dei movimenti, e quindi dobbiamo progettare, costruire la nostra vita così come tutte le volte arriva l'inverno con i suoi disagi, potrebbe di volta in volta esserci qualche movimento. Quindi pensare a progettare case, a mantenersi in una posizione in qualche modo di instabilità ci aiuta a proteggerci di più rispetto allo stress. Abbiamo letto che molte persone alle prime scosse sono scese in strada, hanno trovato rifugio nelle macchine. Lei mi ha raccontato fuori onda che sarebbe importante e utile far diventare un po' l'automobile una sorta di guscio, una risorsa. Sì, questo è molto interessante, no? Quando sono le persone in difficoltà noi vediamo uscire anche il meglio di sé e la creatività, e si scoprono quali sono le risorse reali che ci aiutano in difficoltà. Da queste immagini ho ripensato anche a quello che è successo in Abruzzo, in Molise. Ogni volta si scopre che per gli italiani fortunatamente la macchina spesso è una piccola seconda casa, no? Lo sanno bene anche i costruttori di auto, ma forse vale la pena di considerare questo aspetto e aiutare le persone a pensare fin da prima che questo piccolo guscio che è molto diffuso nelle prime ore, mentre fortunatamente la solidarietà porta anche tende e letti e cose più confortevoli, però questo piccolo guscio è per la famiglia, per le persone, un luogo per sentirsi anche meglio un po'. Allora può essere migliorato, attrezzato per tempo, controllando di avere in auto un'acqua, la coperta, il caricabatterie, il serbatoio sempre pieno, in modo che sia possibile anche creare calore o energia elettrica. Ecco, diciamo che è una piccola grande risorsa su cui si potrebbe fare un po' di investimento, un po' di ragionamento. Certo, un ascoltatore ci scrive, costruire case antisismiche no, ci saranno certo case vecchie, ma nessuno si è preoccupato prima, sempre dopo. Devo dire che i danni sono stati addirittura limitati rispetto ai crolli che ci sono stati, proprio perché molte delle abitazioni, appunto, dei centri colpiti nelle ultime ore sono già state messe in sicurezza. Il tema è che quando arrivano delle scosse di quelle dimensioni in un'area già precaria, si può fare ben poco, insomma. Professor Sbattella, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata. Grazie. Grazie a voi, grazie Nicoletta, Deborah. E noi a questo punto, Deborah, riprendiamo la puntata che avevamo preparato per oggi. Tu ci porterai sui banchi della scuola di investire informati. Esatto, anche perché ricordiamo che oggi si celebra la giornata mondiale del risparmio, è proprio in corso in queste ore una celebrazione molto importante. A Roma ricorrente c'è un'indagine Ipsos molto interessante che ci racconta qual è la nostra nuova propensione al risparmio. Poi parleremo anche del grosso fermento che c'è in questi giorni sul mercato obbligazionario, quindi questi primi due temi, ma ce ne sono anche tanti altri. E tu cosa ci servi? Perché prima io vi invito a prendere un bel respiro, perché nella prima parte del programma parliamo di aria, la cronaca lo impone, avrete letto tutti i dati che sono usciti in questi giorni dall'Agenzia Meteo dell'ONU, che fotografa una situazione davvero difficile e complessa, tanto che gli esperti concordano nel dire che siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico. Noi siamo quello che mangiamo, lo sentiamo ripetere tante volte dagli esperti che vengono a trovarci qua a Cuore Denari, ma sappiamo anche che siamo quello che respiriamo. Allora, sappiamo che per cambiare le cose non basterà certo una puntata di una trasmissione, perché è chiaro che si tratta di un discorso molto più ampio, dove si deve proprio ripensare il modo di concepire le nostre infrastrutture, strade, aeroporti e case, ma qualcosa si può fare. 800 24 00 24 ad esempio, potete mettervi in contatto con noi, oltre che seguirci, per capire, per segnalarci se e come queste notizie, i dati che avete letto in qualche modo vi stanno condizionando adesso che portate bambini a scuola, vi preoccupate di più della qualità dell'aria, siete più sensibili, avete cambiato magari il luogo dove fare footing al mattino, chiamateci e raccontateci. Qualche cosa sta cambiando, lo vediamo, non ci sono più le mezze stagioni, è un modo di dire, ma che riflette una realtà. Ci sono stati dei cambiamenti importanti, ad esempio l'ultimo in ordine di tempo è stato l'uragano Matthew, ma è sotto gli occhi di tutti che gli eventi meteo estremi sono sempre più devastanti. Segno che il clima non è più quello di una volta, una sensazione che tutti noi abbiamo percepito, ma che da qualche giorno è stata confermata dai numeri. L'ultimo bollettino, ve lo ricordo, lo saprete anche voi a memoria, ma mi piace sottolinearlo, dell'Organizzazione Mondiale dell'ONU per la Meteorologia, ha registrato per la prima volta nel 2015 una quantità, pensate, di anidride carbonica nell'atmosfera stabilmente superiore alla soglia delle 400 parti per milione. Ma esattamente che cosa significa e come si può tradurre nella nostra vita quotidiana? Ne parliamo col dottor Sandro Fuzzi dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a voi. Dottore, lei ci deve aiutare a capire, perché abbiamo letto questo dato, ma che cosa ci racconta? Mi aiuta con magari un paragone. Se il clima fosse una persona, questo parametro, a che cosa potremmo paragonarlo? Visto che si sta parlando di riscaldamento climatico, direi che possiamo paragonarlo a un batterio che infetta il nostro corpo e fa salire la temperatura. Certo. Ecco, questo è un paragone che mi sembra molto calzante. Quindi come un batterio, proprio abbiamo parlato qualche giorno fa dei batteri che stanno diventando sempre più resistenti, tra l'altro trovate la puntata sulle nostre pagine. Ma professore, quali sono le cause che hanno portato a questa situazione? Dunque, la causa di gran lunga maggiore è l'uso dei combustibili fossili. Infatti questo dato, queste 400 parti per milione, deve essere messo in un certo contesto per capirlo. Dunque, sappiamo che una concentrazione così elevata di anidride carbonica in atmosfera non si registra da 15 milioni di anni, quindi ben prima che appunto la nostra specie fosse presente sul pianeta. E particolarmente, diciamo, senza andare così lontano nel tempo, se ci riferiamo all'epoca preindustriale, attorno al 1850, la concentrazione di anidride carbonica era piuttosto stabile nell'intorno delle 260 parti per milione. In 150-200 anni, quindi un tempo molto breve, c'è stato un aumento di quasi il 60%, che ci ha portato a questo livello. Dottore, la devo fermare un attimo, sì, perché diamo la linea alle informazioni sul traffico, ma ritorniamo subito dopo con le notizie e gli aggiornamenti per parlare di anidride carbonica, parleremo anche di piante, parleremo di qualità dell'aria. A tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme. Deborah, ci sono degli aggiornamenti? Sì, perché c'è stata una nuova scossa di terremoto, magnitudo 4.4, registrata nella zona di Castel Sant'Angelo sul Nera dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per chi non lo sapesse, appunto uno dei già centri colpiti pesantemente ieri sera, è praticamente l'epicentro delle due scosse di ieri sera vicino Ustita. Siamo proprio nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un piccolissimo centro a poco più di 300 abitanti, però è una zona meravigliosa questa che sta in questo momento in grande difficoltà. In linea con noi il dottor Sandro Fuzzi dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, con cui stiamo commentando i dati che ci raccontano che il livello di anidride carbonica è aumentato. Tra le cause, dottore, un ascoltatore ci scrive: è vero che gli allevamenti intensivi producono più anidride carbonica delle auto? Andrea da Bergamo. No, non è vero, anche gli allevamenti danno un loro contributo al riscaldamento climatico, ma non certamente a quel livello. I numeri che abbiamo però sentito nei giorni scorsi e ricordato con lei stridono con gli obiettivi e i buoni propositi che sono stati lanciati dall'accordo di Parigi e che probabilmente verranno rilanciati alla prossima conferenza sul clima che si terrà dal 7 al 18 novembre a Marrakech. Dottore. Dunque direi che l'accordo di Parigi è molto di più di un buon proposito. Innanzitutto è appena entrato in vigore dopo la firma dei paesi maggiormente responsabili delle emissioni di anidride carbonica, quindi la Cina, gli Stati Uniti, ma anche l'Europa. Quindi è un obiettivo di lungo respiro, è un obiettivo che ci impegnerà per i prossimi 50-100 anni, ma molto probabilmente anche oltre, e quindi si tratta qui di un grosso sforzo per passare dalla produzione di energia mediante combustibili fossili ad una produzione che sia di energie rinnovabili, e questo è fondamentale per poter mantenere, come dicono gli accordi di Parigi, l'aumento della temperatura del pianeta rispetto all'epoca preindustriale entro i 2 gradi alla fine di questo secolo. Prima di salutarla, torniamo ai dati che il vostro istituto elabora. A questo proposito, essendo lei di Bologna, ha sicuramente il polso della situazione della pianura padana, che si conferma, ahimè, essere il luogo più inquinato d'Europa. Abbiamo questo, sì, questo... anche questo... Questo lo si vede chiaramente dalle immagini da satellite che sorvegliano l'inquinamento a livello mondiale, c'è questa macchia rossa che si vede su queste immagini in corrispondenza della pianura padana. Ora, questo è il risultato di due fattori. Il primo fattore è indubbiamente il fatto che la pianura padana ha una concentrazione industriale di attività agricole e di allevamento, ma anche un'importante rete viaria, quindi vi sono delle grosse emissioni. L'altro fatto, che invece è del tutto naturale, è il fatto che la pianura padana è come un catino che è circondato dagli Appennini e dalle Alpi, quindi alte montagne che impediscono un ricambio, possiamo utilizzare questo termine. Questo aggrava certamente la situazione, che è comunque dovuta alle attività umane. Una pianta? Le piante ci salveranno? Grazie al dottor Fuzzi per essere stato con noi, e giro questa domanda alla dottoressa Rita Baraldi, ricercatrice del CNR di Bologna, all'Istituto di Biometeorologia. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a tutti voi. Non siamo soli. Le piante possono aiutarci. Io sto leggendo un libro, guarda che le coincidenze, sono appena all'inizio ma mi ha affascinato, si intitola Verde Brillante, scritto da Stefano Mancuso e da Alessandra Viola, ne parlavo fuori onda con la dottoressa, Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale. Avevamo, non so se stavamo già insieme io e te, avevamo già intervistato il professor Mancuso, che si occupa proprio di questo, dell'intelligenza delle piante. Noi pensiamo alla nostra piantina messa lì, a volte non ci ricordiamo neanche di darle un po' da bere. Qual è invece il frutto che hai risvegliato? Il mango? L'avocado, sono riuscita. Però oggi con la dottoressa Baraldi raccontiamo come e perché le piante possono aiutare. Aiutare noi umani, che delle piante sappiamo poco o nulla, a vivere meglio, che cosa possono fare, avere delle funzioni straordinarie. Il verde innanzitutto aiuta le città e anche le nostre case. Dottoressa Baraldi. Indubbiamente, tutte le piante hanno una funzione importantissima per la nostra vita. Perché proprio grazie alle foglie, semplici organismi, semplici che si trovano appunto sulle piante, possono agire, noi diciamo, come polmoni verdi, perché emettono ossigeno e assorbono anidride carbonica, ma anche come fegati verdi, no? Perché con meccanismi simili possono assorbire anche inquinanti gassosi, come purtroppo il pericolosissimo ozono o appunto quelle sostanze gassose di cui parlava prima il collega Fuzzi, che vengono prodotte dalle attività umane, quindi l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, o catturare quelle dannosissime PM10 o addirittura le PM2.5, che sono polveri sottili che sono così dannose per la salute umana. Dottoressa Baraldi, si fermi, ne torniamo a parlare insieme subito dopo il GR, le piante, fegato e polmone per la nostra salute. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Radio 24 sarà a Lucca in occasione del Lucca Comics dal 28 ottobre al 1 novembre, con una giornata speciale venerdì 28 dedicata al radiofumetto Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. E per chi non potrà essere a Lucca, il 1 novembre giornata dedicata al mondo del fumetto, con interviste, personaggi, approfondimenti e 3 appuntamenti speciali con Dylan Dog alle 10, alle 14 e alle 18. Se vuoi saperne di più, www.radio24.it. Cuore e denari. E siamo tornati insieme oggi proprio come stanno facendo i colleghi del GR che ogni giorno nel GR delle 7 fanno un viaggio nelle città italiane per capire come le varie amministrazioni stanno affrontando il tema dell'inquinamento con degli approfondimenti dedicati alla mobilità proprio in conseguenza dello smog. Anche qui noi a Cuore Denari parliamo dell'aria che respiriamo e parliamo di amiche che ci aiutano ad avere un'aria migliore, parliamo delle piante, lo facciamo con una grande esperta, la dottoressa Rita Baraldi, ricercatrice del CNR di Bologna all'Istituto di Biometeorologia. Buongiorno, ribongiorno dottoressa. Ribongiorno a tutti voi. Allora, il verde lo sappiamo è fonte di benessere per tutti gli esseri viventi, uomo compreso. Negli agglomerati urbani il verde può svolgere svariate funzioni, dalla riduzione dell'effetto isola di calore, con quindi la conseguente riduzione della temperatura, alla riduzione degli inquinanti, come ci accennava lei, tanto che ha paragonato le piante non solo, diciamo, il polmone verde, ma anche al un fegato, quasi di hanno anche questa azione che possiamo dire depurativa. Ma ci sono piante e piante, voi le avete studiate. Dottoressa Baraldi, che cosa ci racconta? Sì, non tutte le piante sono uguali, chiaramente, sia come attività fisiologiche, sia come morfologia delle foglie, che sono l'organo principale attraverso il quale le piante agiscono la loro azione di mitigazione. Sì. E fermo restando che tutte le piante hanno una grande capacità di darci una mano, però ad esempio ci sono piante che hanno una crescita maggiore o anche più prolungata nel tempo, che possono assorbire ad esempio fino a 6 tonnellate in 50 anni di vita di CO2, e mi riferisco ad esempio a una bellissima pianta come la quercia, come il cerro, l'acero riccio, che sono anche ottime piante per la mitigazione degli inquinanti, sia per la presenza, come tutte le piante, nelle foglie di stomi, aperture stomatiche attraverso le quali entrano le sostanze gassose, sia per la presenza sulla superficie fogliare di peli e di cere che riescono a intrappolare le polveri sottili. Ma abbiamo anche tanti altri alberi come tigli, frassini, olmi, anche questi sono ottimi per assorbire la CO2 fino a 5 tonnellate in 50 anni, oppure Vi rendete conto della quantità? Perché sentiamo questi dati, 6 tonnellate, 5 tonnellate, e pensate che cosa fanno? Riprendo solamente, scusate, ma io adesso ho il trip di questo libro perché lo sto leggendo da poco, e leggo direttamente, le piante si parlano, riconoscono i parenti, dimostrano di avere diversi caratteri, proprio come nel regno animale, in quello vegetale esistono piante opportuniste, piante generose, oneste e truffatrici, che ricompensano chi le aiuta e puniscono chi cerca di danneggiarle. Mi stai facendo tratte pensare da verde brillante a Crozza, che imita il cuoco. Brava. Vegano uguale. All'estremo, e insomma fa la rianimazione allo scalogno, cioè, mi è tornato in mente quello sketch. Dottoressa Baraldi, allora ci ha parlato di piante che possiamo trovare nei giardini, nei parchi, ma portiamoci anche una pianta a casa. Quali sono le piante che aiutano a ripulire tra virgolette l'aria delle nostre abitazioni? Possiamo individuarle, dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori? Sì, perché noi pensiamo in casa, no, di essere in un ambiente protetto. Purtroppo la presenza di colle nelle nostre pavimenti o nelle nostri mobili o il computer, insomma, ci sono delle emissioni di sostanze volatili che possono essere dannose per la salute umana, quindi al di là dell'aprire e cambiare aria nella nostra casa, però le piante, oltre che essere belle, naturalmente sono, anche in questo caso ci vengono incontro, piante che noi naturalmente abbiamo nelle nostre case, mi riferisco al Ficus benjamina o le felci oppure lo Spatifillum, anche la stessa stella di Natale, no? Adesso ci avviciniamo al Natale, quindi ci aiuta a assorbire queste sostanze dannose. Per non parlare dei ficus, per non parlare poi della reca, dell'edera, dei potus, insomma filodendro, sono tutte piante che ci possono aiutare, anche in camera da letto, no? Che abbiamo sempre detto no, in camera da letto le piante no, perché assorbono ossigeno durante la notte ovviamente, e invece abbiamo piante come la sansevieria e l'aloe che ci possono invece aiutare, perché al contrario di notte producono ossigeno e assorbono l'anidride carbonica. Lei che piante ha a casa sua, dottoressa Baraldi? Ne ho molte colorate, a me piacciono molto le piante colorate, quindi sicuramente ho lo Spatifillum, l'Anthurium e lo Spatifillum, e ho anche delle gerbere, perché la gerbera È una pianta secondo me bellissima perché porta molto colore in casa e ha delle foglie molto pelose, come diciamo noi, quindi riescono a intrappolare anche le particelle che si formano in casa se qualcuno purtroppo ancora fuma in casa. Ecco, e sottolineiamo purtroppo. Esatto. I pini, ci scrive un ascoltatore anonimo, servono per catturare l'anidride carbonica? Probabilmente sì. Assolutamente sì, come tutte le piante. I pini, tra l'altro, proprio la conformazione di queste foglie aghiformi, hanno una superficie fogliare talmente ampia e possono intrappolare molto meglio di altri anche le particelle, quindi le PM10 oppure assorbire gas. Quindi i pini sicuramente buono, promossi. Allora, io non posso, ci scrive un ascoltatore su WhatsApp, tenere piante in casa, ma ho riempito il balcone, vale comunque? Ma in inverno, quelle che perdono le foglie, come fanno a proteggerci? Dottoressa Baraldi, dopo questa risposta so che lei deve scappare, io la saluto e parlerò di pressione, perché c'è una relazione molto stretta tra inquinamento e pressione, poi andremo volando alla nostra scuola di risparmio. Dottoressa Baraldi. Sì, sì, ci possono proteggere anche nei nostri cortili, ovviamente chi perde le foglie d'inverno non può fare la sua azione, lo possono fare le piante sempreverdi, e l'importante è capire che anche noi del privato possiamo fare la nostra azione per ridurre l'inquinamento, per ridurre la CO2 piantando nei nostri spazi verdi, e per questo dobbiamo ringraziare appunto la sensibilizzazione di diverse associazioni e organizzazioni di categorie che hanno sensibilizzato in entrambi i rami del Parlamento, e proprio in questi giorni per la legge di bilancio si sta parlando di introdurre una proposta di legge sulla defiscalizzazione delle opere a verde pubblico. Metto all'opera i miei esperti al Sole 24 Ore, magari domani lo facciamo, un piccolo focus di qualche minuto su questo. Dottoressa Baraldi, grazie per essere stata con noi, torni presto a trovarci, intanto chiediamo ai nostri ascoltatori di inviarci le foto dell'albero che hanno in giardino o quello che la piantina che tengono sulla scrivania, avocati o a casa, vari. E ci piace molto. Grazie dottoressa Baraldi. Grazie a voi. Quindi aggiungiamo qualche piantina, mettiamo un po' di verde, perché guadagnarci potrebbe essere anche la nostra pressione, perché come anticipato nel collegamento del nostro GR, prima di sederci sui banchi della scuola di risparmio, parliamo proprio di ipertensione e inquinamento. Sostenere questo legame è uno studio pubblicato su una rivista molto prestigiosa, uno studio che è durato 9 anni, ha monitorato, pensate, la salute di oltre 41.000 persone in 5 nazioni europee, alla ricerca proprio di un legame tra traffico e ipertensione. I risultati sono evidenti: vivere in zone altamente trafficate aumenta i rischi per il cuore, esiste infatti una sorta di ipertensione da smog e traffico, un aumento cronico della pressione che nelle aree più inquinate avrebbe effetti paragonabili, pensate, a quelli dell'obesità, che è uno, come sappiamo bene, dei principali fattori di rischio di patologie cardiovascolari. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, presidente della Fondazione della Società Italiana dell'Ipertensione. Buongiorno, ben ritrovato professore, grazie per essere a cuore degli altri. Buongiorno a voi e grazie sempre del vostro gradito invito. Professore, questa ricerca che è stata fatta su un numero consistente di persone e che è durata tanto tempo, un arco di tempo direi considerevole, ha portato alla luce dei dati che immagino non l'abbiano stupita più di tanto, ma noi vogliamo sottolinearli. No, per la verità devo dire non mi hanno stupito, nel senso che noi nel nostro congresso nazionale quest'anno avevamo già introdotto una lettura su questa cosa. Il problema ha una certa rilevanza da un po' di tempo, non era mai stato analizzato così a fondo. Sicuramente è un aspetto importante, perché questi inquinanti dell'aria tendono a indurre uno stato di infiammazione della parete delle nostre arterie, che naturalmente genera innanzitutto un aumento della pressione, ma probabilmente ha un'influenza anche sullo sviluppo di complicanze dell'ipertensione. Quindi fondamentalmente noi dobbiamo considerare questo aspetto, perché aria e cibo sono le uniche cose che assumiamo quotidianamente, e da aria e da cibo purtroppo vengono le nostre minacce. Con la differenza, professor Borghi, che il cibo possiamo sceglierlo e l'aria tocca respirare quella che abbiamo intorno. Sostanzialmente sì, potremmo scegliere anche quella, ma a prezzo di un pagare